Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, plenaria a Strasburgo in questa giornata, nei giorni che verranno, e proprio da Strasburgo noi iniziamo in collegamento con il corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, Beda Romano, in trasferta naturalmente a Strasburgo, per cominciare dalle attese previsioni economiche. Beda. Sì, è un'analisi fatta di molte ombre e alcune luci, quella illustrata oggi dalla Commissione Europea. Presentando le proprie stime economiche d'inverno, l'esecutivo comunitario ha rivisto al ribasso la previsione di crescita dell'Italia nel 2014. È una revisione minima ma abbastanza significativa, passa dallo 0,7 allo 0,6%. Il dato è particolarmente deludente in un contesto nel quale l'Unione Europea nel suo complesso sta riprendendo la via della crescita. Infatti, sempre secondo la Commissione europea, la zona euro dovrebbe quest'anno crescere dell'1,2%, un ritmo doppio rispetto a quello atteso in Italia. Migliori notizie ci sono invece sul fronte dei conti pubblici. Rispetto alle previsioni di novembre, la Commissione è più ottimista sia per quanto riguarda il deficit che per quanto riguarda il debito. In parte il miglioramento è dovuto a un calo della spesa per interessi, provocato dall'uscita del paese dalla procedura di deficit eccessivo. Grazie a Beda Romano, lo ricordo, in collegamento diretto da Strasburgo, e naturalmente sempre nella, diciamo, capitale storica, la prima capitale sul Reno, quella del Parlamento, che vi ricordo ormai di fatto si riunisce fondamentalmente a Bruxelles, ma per le plenarie a Strasburgo. C'è anche da segnalare l'intervento questa mattina del presidente della Commissione, il portoghese Barroso. Quanto ha detto ce lo racconta la nostra Valeria De Rosa. Plenaria del Parlamento, a poco più di due mesi dalle elezioni, il presidente della Commissione Barroso torna in aula a spingere sulla crescita. Siamo sulla strada della ripresa, ci aspettiamo che prosegua e diventi più robusta nel 2015, ma la situazione è ancora difficile, servirà tempo per risolvere il problema della disoccupazione, ma globalmente l'economia migliora e non dobbiamo sottostimarlo. Il presidente della Commissione fa la lista delle cose da fare per andare avanti: ridurre la burocrazia, semplificare i sistemi fiscali, spostare l'onere fiscale dal lavoro. Temi non nuovi che sollevano qualche critica nelle risposte degli europarlamentari, che rimproverano a Barroso di non tenere nella dovuta considerazione le difficoltà economiche che molti paesi europei vivono. È il capitolo Ucraina però ad aprire il discorso di Barroso. Il presidente fa sapere che l'Europa sta lavorando con i partner internazionali per trovare i modi per sostenere economicamente Kiev, e poi si appella alla Russia. Lavori costruttivamente con noi per garantire un'Ucraina unita, che sia elemento di stabilità per l'Europa e abbia buone relazioni con i vicini a est e ovest. Risposta a stretto giro del ministro degli esteri russo Lavrov. Mosca non interferirà negli affari interni dell'Ucraina e spera che anche i suoi partner occidentali assumano la stessa posizione. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E infine una notizia che arriva dal Regno Unito: ci sono più di 11 milioni di case vuote in Europa, lo ha calcolato da dati ufficiali il britannico Guardian, che parla in prima pagina di scandalo se si considera che i senza tetto nel continente sono oltre 4 milioni. Al primo posto c'è la Spagna con 3,4 milioni di case non utilizzate, seguite dalla Francia e dall'Italia, terza, in cui il numero delle case dunque non utilizzate oscilla tra i 2 e i 2,7 milioni di abitazioni non utilizzate. E con questo è tutto per il nostro appuntamento con l'Europa. Naturalmente ritorniamo per la cronaca europea nei nostri GR e come sempre nell'appuntamento serale di Europa 24 notte. Grazie. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.